Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. A mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. So con certezza di aver colpito almeno tre, se non quattro generazioni con questa sigla. Mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare. Queste sono le fantomatiche, fantastiche, intramontabili fiabe sonore che non credo che esista un ascoltatore non abbia ascoltato almeno una volta nella vita, sia come infante addormentato nel suo lettino con il disco 45 giri che gira nel mangiadischi, sia come più recente ascoltatore in musicassetta, sia in CD o recentemente in un'applicazione per iPad e Android che nuovamente riporta in vita questo compendio. Erano, mi sembra, un 150 favole, forse il più grande più completo compendio di favole narrate, ascoltabili, quindi vocalmente raccontato come giusto che sia una favola. La favola si racconta, la favola si racconta all'imbrunire, si racconta nel momento liminare del passaggio dalla veglia al sonno, perché accompagni comunque il bambino in un mondo che è la realtà parallela, fatta di irrealtà, fatta di fantasia, fatta di sogni, fatta anche di simboli che servono comunque ad ammaestrarlo, ad affrontare la tensione impervia della vita. Questa mattina vorrei, in attesa della Befana, che ancora per noi arriverà, come è arrivato Babbo Natale, come tutti i fantastici eroi della nostra fanciullezza, crediamo fermamente che esistano, che siano realtà concrete. Non abbiamo mai messo in dubbio la loro esistenza. Io ho la certezza matematica che la Befana solcherà la notte tra il 5 e il 6 gennaio, come ha sempre fatto dal primo giorno che io sono nato. E quindi oggi parliamo di favole, anche perché la Fabbro Editori ha messo in commercio una nuova edizione delle fiabe sonore, dove c'è un compendio, ce ne sono tante, ce ne sono una decina, le classiche, Cenerentola, Biancaneve, La Bella Addormentata, Bella e la Bestia, Raperonzolo, Pollicina Pelle d'Asino, Principessa Incantata, Abiti Nuovi del Granduca e Il Principe Rospo, che sono alcuni classici, ma ne hanno fatte tantissime. Ricordo un fantastico Pinocchio, che era la più ambita, perché assieme a Alice nel Paese delle Meraviglie era scansionata in varie uscite, in vari dischi o in varie cassette successivamente. E Pinocchio in particolare era letto da un fantastico Paolo Poli. Beh, questa mattina vi faccio riascoltare le fiabe sonore. Parliamo di favole e di fiabe. Ognuno di voi chiamerà l'800240024 e mi fornirà il suo ricordo. Vorrei rimettere insieme il mosaico dell'ascolto delle fiabe sonore. Come le ascoltavate? Su che supporto le ascoltavate? È raro che esista un prodotto dello scibile umano che è tracimato in maniera così felice di supporto in supporto. Ha sfidato vari decenni, ripeto, dal disco 45 giri alla cassetta, al DVD e all'applicazione per smartphone e tablet. Quindi nessun'altra opera dell'ingegno è passata indenne attraverso tante riesumazioni, morti e resurrezioni. Lo dico anche perché proprio alla vigilia di Natale è uscita la notizia che vorrei mettere come provocazione. L'impavida, integerrima, iperpartoriente ministra alla famiglia del governo tedesco, braccio destro della Merkel, la signora Christina Schröder, che ha partorito e l'istante dopo è tornata al lavoro, ha fatto una dichiarazione, secondo me poteva benissimo risparmiarsi. Femminista di antica data, ha detto che per la sua felice bambina, il frutto benedetto del suo autogestito utero, lei avrebbe eliminato alcune favole. In particolare ha citato Cenerentola e Biancaneve, che sono sessiste. Cappuccetto Rosso, perché è violenta, ma potete immaginarvi una favola come cappuccetto rosso senza lo squartamento del lupo da cui esce la nonna. Io trovo sia un'immagine fantastica. Una nonna che esce viva dalla pancia di un lupo squartato. Ma non c'è di meglio. No, è violenta. Dovranno leggerla diversamente. Il lupo, che è un felice animaletto che probabilmente sta in una zona area ecologica, non mangia la nonna assolutamente, ma non lo so cosa possa fare. Se la porta sulle spalle, no, sarebbe una sorta di vessazione verso l'animale. Vanno insieme al guinzaglio? No, al guinzaglio no, sarebbe ancora una sorta di rapporto subordinato animale. Si congiunge con la nonna, ecco, si congiunge con la nonna. Il lupo si congiunge con la nonna, superano ogni barriera sessuale, razziale, di genere. Il lupo e la nonna felicemente si amano, si baciano e si sposano, e va ancora oltre tutti i matrimoni possibili e immaginabili. Ma soprattutto, e questo di questo non la perdono, se l'è presa con Pippi Calzelunghe. Pippi Calzelunghe lo guardavo io, lo guardano i miei figli, sono grandi ancora, il pomeriggio guardiamo per la miliardesima volta Pippi Calzelunghe e andiamo in estasi, perché è meraviglioso, perché è una sorta di tempo irreale ricostruito in una Svezia che dovrebbe essere degli anni 40, in cui i poliziotti girano invece con automobili dei primi secoli del Novecento e sono tutti vestiti anni 60, in cui c'è questa fantastica bambina dai poteri inimmaginabili che è una vera discola. Pippi Calzelunghe va tolta dal compendio delle favole della ministra Schröder. Perché? Perché il padre è il re dei negri, il padre, il pirata, quel pacioccone pirata buonissimo, amico di tutti gli altri pirati, che in tante situazioni è stato anche imprigionato, siccome viene chiamato un nome svedese illeggibile, tradotto re dei negri, quindi naturalmente, essendo re dei negri, è un razzista e quindi va debellato. Voi cosa ne pensate? 800240024. Tocco con la bacchetta il castello intero e ordino che tutto ciò che in esso è rinchiuso, uomini e animali, si addormenti per svegliarsi solo quando la principessa si sveglierà. Pongo intorno al castello una selva intricata di spine, che nessuno disturbi questo sonno secolare. Grazie, mia buona fata, di tutto quello che hai fatto per nostra figlia. Io e il mio sposo ce ne andremo. Non rivedremo mai più la nostra bambina. Invecchieremo, moriremo, e lei sarà sempre addormentata. Mi consola solo il pensiero che al suo risveglio non sarà sola e smarrita, ma avrà accanto dame e cavalieri che conosce e che le sono affezionati. E ora, miei cari, lasciate questo castello. La principessa deve dormire, dormire, dormire. Inizio subito con un cammellino della memoria, un mio ricordo personale. Essendo io perugino, sopra casa mia a Perugia hanno costruito una fantastica Disneyland dei poveri, si chiamava la Città della Domenica, era una specie di parco giochi dove ne ho ricostruite in maniera molto sommaria, ma per noi fantastica, in mezzo agli oliveti della città che circondano la città di Perugia, il castello della Bella Addormentata, la casetta di Cappuccetto Rosso, i sette nani, tali quali rimasero di gesso per 50 anni, ci portava ancora i miei figli fino a una decina di anni fa. Nella Città della Domenica c'era il castello della Bella Addormentata e c'era una specie di ricostruzione, un diorama, in cui si entrava nel castello e il principe svegliava la Bella Addormentata. Ricostruito come potranno costruirlo gli artigiani perugini degli anni 60, c'erano dei manichini da negozio che gli hanno tolto il cappottino rosso da addosso, appunto, e l'hanno in qualche maniera movimentati. Era bellissimo perché quando si sentiva la musica e il racconto, la favola sonora sotto, o della Bella Addormentata della Disney, a un certo punto il principe, con un movimento meccanico, cadaverico, si chinava e la baciava e si alzava la Bella Addormentata e apriva gli occhi, ma sembrava uno zombie resuscitato, e noi eravamo spaventatissimi da questa scena. Beh, cosa c'era di sessista in tutto questo? Magari c'era un discorso che il principe sembrava un cretino come tutti i principi delle favole tradizionali. 800240024. Bella, volete sposarmi? Non credo che potrò sposarvi mai, ma sarò sempre la vostra sincera amica. Mi rassegnerò, Bella, però promettetemi che non ve ne andrete mai. Lasciate che mi rechi almeno per una settimana a casa. Vi prometto che tornerò allo scadere dell'ottavo giorno e poi non vi lascerò più. Badate, Bella, io morirò se non tornerete. Prometto di tornare. Allora sta bene. Prima di coricarvi lasciate questo anello fatato sulla tavola. Vi sveglierete domani a casa vostra. Bella riposa tranquilla, la notte è passata. passa veloce. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a tutti. Silvana De Mari, sentiamo una voce lontana perché in un'isola lontana, quindi anche lei come personaggio delle favole. Ricordo, scrittrice di genere fantasy, saggista, psicoterapeuta, ospite graditissima di Melog da anni, ultimo saggio pubblicato, La realtà dell'orco, edizioni Lindau. Silvana, cosa ne pensi della garula ministra tedesca che vuole eliminare le favole? Signora viva nel mondo del Mulino Bianco insieme a Banderas e alla gallina e probabilmente discende dagli extraterrestri o dagli angeli. Non ti piace Banderas mugnaio? No, non mi piace neanche quando non fa il mugnaio. Comunque, ma fa sognare, non sai quante mamme, tutte innamorate, tutte comprano i biscottini quando Banderas che li fa la notte con le sue manine delicate. Allora i miei complimenti a chi ha fatto il marketing l'ha azzeccata. Noi che apparteniamo all'umanità, un'umanità che ha prodotto Gengis Khan, che da solo ha fatto 40 milioni di morti, e che ha prodotto anche un tale che si chiamava Hitler, non so se la signora tedesca ne ha mai sentito parlare. Noi apparteniamo a un'umanità che ha... Ma vuoi mettere col papà di Pippi Calzelunga? Ha delle fiabe che contengono il dolore della creatura umana, che contengono la violenza, che contengono la paura, che contengono la vergogna, che contengono la collera. Le fiabe devono essere atroci. E quando noi raccontiamo una fiaba a un bambino, il suo cervello produce endorfine, le quali non solo lo fanno scivolare verso il sonno e migliorano il suo sistema immunitario, ma aumentano le sue capacità cognitive. Per cui, diceva la buon'anima del dottor Einstein, non so se la signora tedesca questo l'ha mai sentito nominare, se volete dei figli intelligenti raccontate loro delle fiabe, se volete dei bambini molto intelligenti raccontate loro molte fiabe. La sua bambina, questa signora, poi dove la manda a vivere? Su Marte? Perché se la tiene a vivere su questo pianeta qui, questa bambina prima o poi si troverà a che fare con la risoluzione dell'ONU 157 del 2 agosto 1990. Di che cosa accidenti sto parlando? Del fatto che l'ONU il 2 agosto 1990, accettando la dichiarazione della libertà dell'uomo islamico di seguire la Umma del Cairo, ha equiparato la Sharia alla dichiarazione di diritti dell'uomo. Non raccontiamo delle fiabe ai bambini dove c'è scritto che le donne sono uguali agli uomini, perché sono false. Sono false perché gli uomini sono diversi da noi e noi siamo diversi dagli uomini. Per fortuna. Un uomo deve salvarmi, ha una maggiore forza muscolare. Qualche giorno fa sulla panoramica a Torino, vicino dove abito io, un posto bellissimo dove il cellulare non prende, ho bucato una roba. E non sono riuscita, e sono una robustina, a svitare i bulloni perché erano avvitati a macchina, non ce l'ho fatta. A un certo punto sono passati... Ma devi montarci sopra con i piedi, non sai come si fa, si mette la chiave e uno ci monta sopra. Non ci sono riuscita neanche col peso e non peso poco. A un certo punto sono passati 3 ciclisti e ho detto scusate per favore mi cambiate, mi sbollate i bulloni, ho detto signora scherza, cambiamo la gomma, meno male che c'era lei perché stavamo morendo in salita, così almeno le prendiamo fiato, ci ha salvato la vita, sono stati simpaticissimi. T'hanno cambiato la ruota? Mi hanno cambiato la ruota. Erano 3 principi azzurri praticamente. 3 principi azzurri. Quando un uomo mi apre la portiera vuol dire io userò la mia forza al tuo servizio, non contro di te. Non ti sprangherò a morte e poi ti butterò giù da un camion, non ti raffiderò. Io userò la mia maggiore forza fisica al tuo servizio, questo è il senso meraviglioso della cavalleria contenuta nelle fiabe. Io ho una maggiore forza fisica rispetto a te, ma non la userò contro di te. Fermati solo un istante, Silvana, Rita, ci sono 2 ascoltatrici. Rita, buongiorno. Buongiorno a tutti. Complimenti alla signora, meravigliosa anche lei. E concorda anche lei che esattamente così, che il principe azzurro deve essere un principe, quindi deve far qualcosa per meritarsi la principessa. Ma sono sicura che deve essere così. Comunque avevo telefonato per le fiabe sonore, che per me sono una cosa meravigliosa. Sono ormai già vecchietto, delle figlie grandi, ma le ascoltiamo ancora, ci piace tantissimo ascoltarle. Le andavo ad ascoltare da un'amica che era più ricca e le aveva tutte col mangia dischi e io andavo giù di testa quando andavo a casa sua perché io non le avevo ed erano dei momenti per me di una bellezza che auguro a tutti di vivere. Lei si ricorda, noi abbiamo mandato La Bella Addormentata, finora La Bella e la Bestia, anche se è superfluo che le ricordi. Ma io ne ho una che mi piace da morire, che è 5 in un baccello, è la storia di 5 piselli, ed è una cosa divertentissima. Guarda, mi ero trattenuto perché poi mi dicono che l'esprima al tournée, ma visto che lei ha citato la storia dei 5 piselli, la voglio deliziare stamattina e gliela propino. Nello stesso baccello abitavano 5 piselli. Si chiamavano Pisin Pisello, Pisello Piso, Pisellotto, Pisel Pancione e Pisellino. Erano tutti e cinque teneri e freschi e di un bel verde chiaro. Anche il baccello era verde. Allora tutto il mondo è verde. Non dire sciocchezze. Ma se non vediamo altro che verde, significa che tutto è verde. Invece di fare della filosofia, cerca di tirarti un po' in là. Io qui sto stretto. Stavano bene i piselli raccolti nel baccello. Il baccello era proprio comodo. Ecco, Rita. La ringrazio tanto. Si è commossa al ricordo. No, mi diverte tanto. Diciamo la verità, Rita. Tutti ci abbiamo riso su questa vicenda. Da morire. Da morire. Tutti. Quando cominciava la favola dei cinque piselli, ridevamo tutti. Sì, le sì, nonne sì. Facevano finta di niente. Le mamme, che erano un pochino più moderne, ci stavano al gioco. I padri ci aiutavano. I cinque piselli era una palese allusione a ciò che più fa ridere e sorridere i bambini. Le cose zozze che non si possono dire. E infatti quella è l'unica che lei si ricorda con tale vivezza. Silvana De Mari, secondo te c'era cioè chi ha scritto, immaginato e sceneggiato per la Fabbri Cinque Piselli? Avrà immaginato che i bambini ci avranno scherzato, riso e motteggiato? Sicuramente sì, anche se non credo che questa fosse l'idea originaria di Andersen, semplicemente perché nella sua lingua la parola pisello non indica anche quella roba lì che indica da noi. Per quanto riguarda Pippi Calze Lunghe, è stata tradotta in italiano, la sua presenza non è stata tradotta, è stata comprata dalla geniale Donatella Zigliotto, che è una scrittrice editor italiana straordinaria che dirigeva la collana della Salani Gli Istrici. E lei ha importato in Italia Roald Dahl e Pippi Calze Lunghe. Io sono molto grata a questa signora perché io sono diventata una scrittrice grazie a lei, che ha pubblicato il mio primo libro. Ma ci ha visto lungo perché Pippi Calze Lunghe tutti i pomeriggi nei canali satellitari ancora va in onda integrale, quindi è un prodotto che funziona almeno da 30 anni. E perché Roald Dahl no? Ah certo. Lei è portata in Italia anche Roald Dahl, è stata una donna straordinaria. Per quanto riguarda il Re dei Negri, vale per la lingua tedesca lo stesso che vale per la lingua italiana. La parola negro indicava un individuo di origine africana e non aveva nessun senso dispregiativo. Nei tutti i dizionari di prima del 1950, 60, 70, negro vuol dire persona di origine africana e nero è un aggettivo, non ha funzione di sostantivo. Poi i doppiatori dei film dovevano avere un qualcosa per fare nigger e black, cioè nigger che è dispregiativo, sarebbe negraccio, sarebbe sporco negro, ma bisognava farlo con una parola sola di due sillabe perché altrimenti non c'era il sincrono. Non c'era il sincrono, grazie. E quindi si è inventato negli anni 70 che negro abbia una valenza dispregiativa, questo è gravissimo. Perché tutta la lingua italiana, come la lingua tedesca, come altre lingue, sono state accusate di razzismo. I miei padri, i miei nonni a questo punto sono accusati di razzismo perché dicevano negro. Se voi guardate quel bellissimo film che La vita è una cosa meravigliosa di Frank Capra, alla fine si dice la frase c'è anche la negra, che ha la stessa valenza che c'è anche la scozzese. Vuol dire quella roba lì. Quando è morto Martin Luther King, i giornali hanno titolato è morto il grande leader negro con la G. Quindi si tratta di una società che accusa se stessa di razzismo, che accusa i propri padri di razzismo. I fratelli Grimm appartengono alla loro epoca, onestamente in edizione integrale vanno letti perché sono straordinari, ma vanno letti alle medie, perché è un linguaggio alto, come un linguaggio altissimo, Andersen, l'attacco del brutto alla zoccola, una roba straordinaria, magari anche con una comprensione della loro epoca, ma attenzione, più o meno semplificati, vanno letti sempre con la loro valenza di ferocia. Il nostro cervello ha due emisferi, un emisfero razionale che funziona per via logica, processa un solo pensiero alla volta ed è di tipo analitico, e un emisfero non razionale che è di tipo analogico, che non vuol dire che è scemo, vuol dire che funziona in maniera analogica e non logica, non razionale non vuol dire stupido, ma che usa altri sistemi che non sia la ragione per comprendere la realtà in tempi brevissimi e adattarci. L'emisfero non razionale di tipo sintetico processa migliaia di pensieri alla volta. Noi abbiamo messo nelle fiabe delle intuizioni di cui non eravamo coscienti, non ce ne siamo resi conto, sul funzionamento della mente umana. Vi faccio un esempio dell'ultimo scrittore terrificante di fiabe, che scriveva fiabe atroci e senza possibilità di risoluzione. Kafka nel 1925, 10 anni prima del congresso di Norimberga, 10 anni prima del momento in cui l'antisemitismo è diventato ufficiale, scrive una fiaba in cui un uomo si sveglia al mattino trasformato in scarafaggio. Fiaba che non ha nessun senso logico, ma lui aveva fatto un'analogia, lui aveva intuito col suo cervello inconscio, non l'aveva capito, altrimenti avrebbe avvertito la sorella che si salvasse, la sorella è morta d'Auschwitz, lui è morto prima di tubercolosi. che il suo popolo stava per essere trasformato in un popolo di scarafaggi, e gli scarafaggi sono creature che si calpestano fino a quando non si è finito il processo. Un uomo è stato condannato a morte, non si sa perché. Sono tutte metafore, intuizioni. Se la signora tedesca vuol capire Auschwitz, prima o poi lo dovrà spiegare a sua figlia. Ci sono due fiabe che lo spiegano, una è Biancaneve e Sette Nani e l'altra è Pollicino. Biancaneve e Sette Nani, chi è la madre cattiva? È la madre, con le madri ipercompetitive, la madre che deve sempre essere lei la più bella del reame. Fino a quando la bambina ha 8 anni va benissimo, perché io posso essere la più bella del reame ed essere la madre della bimba più bella del reame. Nel momento in cui mia figlia supera il menarca, le mestruazioni, io non posso essere io la più bella del reame, la più bella del reame. Subentra la figlia. Esatto, quindi la comincia a... Sentiamolo un attimo. C'era una volta, in un castello lontano, lontano, una bella e buona regina che desiderava una bimba che avesse la carnagione candida come la neve. Un bel giorno la piccola nacque e fu chiamata Biancaneve. Poco tempo dopo, purtroppo, la regina buona morì e il re prese un'altra moglie, altrettanto bella, ma tanto vanitosa da non sopportare che esistesse nel regno una donna più bella di lei. Per sapere se davvero fosse la più bella, la regina interrogava uno specchio fatato. Dimmi, specchio, in verità, chi è regina di beltà? Sei tu, mia... Carla, buongiorno. Carla, buongiorno. Sì, sono io, buongiorno. Stiamo con Silvana Mare analizzando quelle che sono i significati profondi e universali delle favole, come ci sta dicendo la scrittrice madre. Ma però da voi invece chiedo il ricordo viscerale, concreto e personale sulle fiabe sonore. Sì, infatti. I miei 5 nipoti se le disputano per averli in eredità. Beh, oggi perché, basta riversarle. Perché sono ancora i libri originali, molto grandi. Che supporto le ha lei? Su disco? Su disco 45 giri. Ancora? Ho comprato apposta, adesso per fortuna rifanno questi giradischi che recuperano, si può far girare e loro ne vanno. Questi nuovi giradischi, diciamo sì, vintage, hanno sì, però sì, la possibilità di recuperarli e di riversarli su un MP3. Sì, ma a loro piace così, una cosa un po' antica, no? Sì, ma a un certo punto finiranno. Io vi consiglierei di riversarle tutte, sì, no, tenere i dischi nella vetrinetta di casa. No, ma mia figlia e mio figlio a casa loro a Milano hanno già le cassette, ma quando vengono qui da noi, noi abitiamo sul Lago d'Orta, nella casa dei nonni, diciamo, allora a loro piace così, ne vanno pazzi di queste fiabe sonore. E io devo dire che una delle cose che sono cresciuti i miei figli con queste, ma bisogna fare un elogio agli attori, ma come recitavano, e le canzoncine. Ma guarda, era un prodotto fatto con il, come sempre si faceva in quegli anni, con il fiorfiore degli sceneggiatori, degli autori, dei musicisti, forse sì, vi faremo una sorpresa fra un po', quindi sì, era il top, come ho già detto, Pinocchio. E le illustrazioni, non mi dice niente delle illustrazioni? Sì, le illustrazioni pure, certo, sono datate ma sono assolutamente indimenticabili, sì, quello che ho in mano io infatti è ancora le illustrazioni che ricordo quando ero io bambino, poi io avevo 7 anni, ero già grandicello, però mi ascoltavo, noi le favole le abbiamo ascoltate fino a 14 anni circa, siamo passati dalla Foresta Nera all'Indicibile Oggetto e nemmeno ce ne siamo accorti. Emma. Buongiorno Nicoletti, bellissimo il tema di oggi. Volevo dare 2 flash, uno sulle fiabe sonore e uno su Pippi Calzelunghe. Allora, fiabe sonore le ascoltavo nella sala della casa dei miei genitori, dove c'era un apparecchio radio della Geloso, radio con giradischi, e le mie preferite in assoluto i 4 musicanti di Brema, perché è un messaggio bellissimo, questi 4 reietti che riescono comunque a rifarsi una vita felice anche senza raggiungere il loro obiettivo, cioè i musicanti non lo faranno mai, ma trovano questa bellissima casa nel bosco. E poi c'era quella parola bellissima quando fanno il conciliabolo per programmare come sbattere fuori i briganti da quella casa. Sì, c'era anche una ricchezza di linguaggio che oggi si è perduta. Sì. Forse sì, la nostra generazione ancora usa qualche parola in più rispetto al vocabolario corrente, proprio perché ha ascoltato molte favole. Erano favole scritte in perfetto italiano, erano favole con una ricchezza lessicale che oggi ce la sogniamo veramente. Puoi fare un'ultima richiesta? Domanda al re la pelle dell'asino fatato. Ma madrina, non posso! Eppure è l'unico desiderio che il re non potrà soddisfare, perché egli non vorrà certo sacrificare una simile fonte di ricchezza. Dovete sapere, infatti, che il vecchio re possedeva un asino straordinario. Questo animale aveva una grande proprietà. Ogni volta che muoveva le orecchie, lasciava cadere una cascatella di tintinnanti monete d'oro. La fata aveva quindi motivo di pensare che il re non avrebbe voluto privarsene, e invece... Poi la pelle di quell'asino? L'avrai, cara fanciulla, fosse l'ultima cosa che possiedo al mondo. Ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare. Venite con me. Dal 66 generazioni di bambini sono addormentati con questa musica, con questa canzone e con questa voce. Vittorio Paltrinieri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Questa musica è sua. Ho sentito la voce del povero Pisu, il mio caro amico. Pisu era, diciamo, la voce portante delle fiabe sonore, e lei è il maestro che ha fatto tutte le canzoni e tutte le musiche. Sì, esatto, sì, sì. Le parole pure sono sue, A mille ce n'è? No, quello non l'ho musicata solo, c'è la parte del testo. Ecco, ci racconta come nacque questo progetto, come la voce di Pisu praticamente... Ma scherzo, si può dire, perché... Fui chiamato da allora era Gavioli, che aveva in mano la cosa delle favole, e mi ha proposto, perché mi conosceva, sapeva il mio spirito, sapeva la mia, diciamo, versatilità, insomma, per queste cose, e quindi mi abbiamo combinato, insomma, ecco, e mi sono accostato a Pisu, che era, mi chiedi, conosci più? Siamo amiconi. E così ci siamo incontrati, la pensavamo possibile della stessa maniera, è andato benissimo tutto. Abbiamo fatto un centinaio di favole. La realizzazione era perfetta, anche come riprese tutto. Ancora oggi le danno per gli iPad, per i tablet, così. Sono passate da 45 giri a DVD, a cassetta. C'era un grande lavoro dietro. Era un suo studio professionale, perché era la Fonda Roma. All'inizio era Gavioli, lo stesso Gavioli aveva delle funzioni, gli stessi tecnici, così. Poi sono per motivi che non so e non mi interessa sapere. Ci siamo trovati in questo grande salone, che era lì a, come si dice, non mi ricordo che zona era, Milano, dove? Ah, Milano. Adesso c'è la Fininvest. Ah, ho capito, sì, c'è, sì. C'è il canale 5, a Segrate era, allora. Che tra l'altro facevamo un sacco di risate, perché era fatto con una regola d'arte, un enorme salone che si poteva registrare dentro anche una partita di calcio, per dire com'era grosso. Non hanno pensato però che lì gli aerei passavano sopra e facevano un casino d'inferno. Perché è vicino a Linate, proprio dove vicino a tutto. Era gioco forza, doveva finire, insomma, no? Smettere e sospendere fino a che il rumore. Quindi avevate anche un bel numero di attori, perché ci sono tante voci. Sì, lui era, dato che era nel suo ambiente, conosceva un sacco di attori che poi divennero tutti i miei amici. Molti li conoscevo già, molti no. Anche Pinocchio fatto con Paolo Poli, se lo ricorda? Pinocchio fatto con Paolo Poli, se lo ricorda? Vagamente, perché sono vecchio, sono passati parecchi anni. Quanti anni ha lei, maestro? Adesso a febbraio ne ho 89. Gli hanno dato l'Ambrugino d'oro per la sua carriera? Sì, me l'hanno dato. È stata un'emozione magnifica, perché lei ha la responsabilità e il privilegio comunque di aver fatto addormentare veramente, io penso che almeno 4-5 generazioni di bambini, me compreso, quindi di questo le siamo veramente molto grato. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno e auguri di buon anno a lei e a tutti gli ascoltatori. Cosa deve dirci? Allora, io volevo dire, per quanto mi riguarda, fiabe sonore in 45 giri. Ricordi belli, anche se molto labili, si vede che sto andando un pochettino in là con gli anni, ma non mi ricordo bene, però mi ricordo che avevo una decina di quelle fiabe lì. Volevo ricollegarmi un attimino al discorso della signora Schroeder, che ha fatto questa affermazione sul femminismo e vorrebbe bandire Pippi. Allora, io, nel mio modesto parere, ritengo che Pippi Calzelunghe sia la più grande femminista della storia. Sì, se vuoi usare questo termine, era una bambina assolutamente sui generis, è una bambina assolutamente sui generis. Il vero problema di Pippi è che aveva uno spirito ribelle e totalmente anarchico, era una ribelle ad ogni autorità, ma le autorità erano rappresentate da persone talmente idiote, dei poliziotti cretini, da una maestra bigotta, da una zia cretina, stupida, e quindi era... E penso che sia una cosa bellissima, cioè la forza del bambino di fronte a quella che è la demenza dell'uomo grande, dell'uomo adulto. Grazie Anna. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Anche lei è ascoltatore di Fabio Sonoro? Sì, io sono stato bambino nei primi anni 70 e sono stato figlio unico fino all'età di 12 anni, quindi per me le fiabe sonore hanno rappresentato una sorta di compagnia nei pomeriggi di gioco. E mi ricordo fondamentalmente una delle fiabe che mi piaceva di più era Il lupo e i tre porcellini su 45 giri. Le canzoncine dei tre porcellini erano favolose, erano bellissime. Sì, però io avevo, oltre alle fiabe sonore, avevo un altro, c'era un'altra serie di fiabe. Il 45 giri era bianco con delle testoline disegnate sopra ed era, diciamo, una serie parallela, cioè, avevo anche le fiabe sonore. E mi ricordo la cosa particolare di questi 45 giri, che spesso si incantavano, e qui, perché ovviamente venivano rigati i segnali giocandoci. Certo. E molto spesso c'erano delle frasi che ricorrevano, io poi non le andavo a sbloccare perché stavo giocando, e ricorrevano quasi come un mantra, quindi c'era la famosa frase: il lupo perse la pazienza, che mi ricordo che delle volte la lasciavo andare. Sì, c'erano le frasi, questa è una, lei mi ha ricordato una caratteristica dei vecchi 45 giri, sì. A un certo punto si rigavano, e sì, c'era una frase a loop che diventava un tormentone. I ragazzini ridevano su questo. Ed è una cosa che a distanza di 40 anni io ricordo con piacere e con nostalgia, perché veramente era un momento del pomeriggio, prima della TV dei ragazzi magari, oppure appena dopo aver fatto i compiti, nel quale mi ritrovavo da solo in camera con questo 45 giri e giocando avevo e sentivo queste favole. E è un ricordo che poi l'ho rivissuto, perché mio fratello è nato dopo 12 anni, aveva le musicassette. Sulle cassette, il secondo, sì, supporto. Negli primi anni 80. Sì. Però queste musicassette, a differenza delle mie fabbre, erano quelle in cui un attore veniva preso per narrare. Erano, diciamo, molto, dal punto di vista della varietà, erano molto più varie, perché c'erano piccoli episodi, fiabe intere, e narrate per ogni cassetta da vari attori o da doppiatori. Quindi, diciamo, era aumentata la qualità per certi versi. Ed era rimasto però quello spirito degli anni 70 in queste musicassette. Poi ultimamente si chiamava, penso, C'era una volta, e penso che di averle ancora da qualche parte. Anche grazie. Il fratello, diciamo, è vissuto con questa, e ascoltavo io anch'io con piacere, anche se nato in adolescenza, ascoltavo con piacere questa favoletta anch'io, perché mi ricordo che riportavano ad alcuni anni prima. La ringrazio. Hai montato bene il telaio, Famire? Certo, Doremi, possiamo cominciare. Andiamo. E i due, dopo aver montato un grosso telaio per tessere, uscirono a passeggiare. Faceva parte del loro lavoro passeggiare, infatti di lì a qualche giorno si era sparsa la notizia che erano arrivati in città due famosi tessitori venuti da lontano. Hai sentito? Sembra che quei due tessitori siano bravissimi. Mi hanno detto che tessono stoffe meravigliose. La più bella di queste stoffe è perfino magica. Pensate che riescono a vederla solo le persone intelligenti e quelle che sanno svolgere bene... Silvana De Mar, ricordo, scrittrice di fantasy, una delle più grandi scrittrici di fantasy e forse la più tradotta all'estero delle nostre scrittrici, saggista, psicoterapeuta, l'ultimo suo libro, La realtà dell'orco, edizioni Lindau. In particolare questa favola, io me la ricordo, mi impressionava tantissimo, ma devo dire che è stato uno dei miei punti fermi. Il vestito con la stoffa trasparente, che in realtà mette a nudo la vanagloria di tanti personaggi, quanto l'innocenza e la mancanza di pregiudizio radicato possa far capire quella che è veramente la realtà. I vestiti nuovi dell'imperatore di Andersen contiene addirittura il concetto di bipensiero, che Giorgio Orwell esprimerà in 1984. Se tutti dicono che quella giacca è verde, in realtà quella giacca è rossa, pur di non andare solo contro tutti, perché è un dolore per il mio cervello essere solo contro tutti, io all'inizio mentirò dicendo che è verde, poi la vedrò verde, questo è il concetto della risonanza cognitiva. In questa fiaba è stato spiegata anche la base delle dittature, che sì, è la polizia segreta, che se gli rompi l'anima viene a casa e ti spacca le gambe, sì, questo certo fa anche uno dei punti, ma è anche il fatto che nel momento in cui tutti affermano determinata cosa, questa cosa non ha nessun senso, è difficilissimo avere il coraggio di dire il contrario. Francesca. Buongiorno. Sì. Buongiorno, grazie innanzitutto per le trasmissioni interessantissime e le riflessioni veramente incredibili. Io invece volevo riservare un ricordo, una cosa più che altro affettiva, e ho ascoltato le Fiabe Fabbri per tantissimi anni sul mangiadischi Grillo degli anni 70, non so se è presente. Questa mattina chiamano solo persone che hanno ascoltato il primo supporto, quindi le nuove generazioni evidentemente a quest'ora forse fanno altre cose. O non ci ascoltano? Sì, devo dire che poi i miei figli l'hanno ascoltato su musicassetta, però perché ormai sono anche loro grandi, insomma hanno 16 anni, 12 anni, però la suggestione del 45 giri, che poi ogni tanto magari salta, gratta, così. Però volevo dire questo, con un piccolo ricordo di 10 giorni passati al buio, perché avevo il morbillo nel lettone della mamma, circondato da questi libri meravigliosi della Fabbri, e ascoltando però soltanto le voci degli attori, e io immaginavo le figure delle illustrazioni, perché le sapevo ormai a memoria, ma loro riuscivano comunque a farmi... Hai letto una cosa molto interessante. Silvana De Mari, nelle nostre fanciullezze di persone lievemente datate, io più di te, esistono questi momenti di immersione, di caduta della luce, le malattie esentematiche, il morbillo, la varicella, facciamo sì che noi dovessimo stare veramente chiusi al buio nella nostra stanzetta per 4, 5, 6 giorni, una cosa del genere a seconda. E in effetti è vero, il sottofondo erano le favole, era una sorta di momento iniziatico della nostra fanciullezza, oggi non c'è più niente di assimilabile. Assolutamente sì, tra l'altro io ho un amore infinito per tutte le mie malattie, anche perché sono figlia di una mamma che soffriva di depressioni. E quindi a volte mi trovavo con mia madre seduta su una sedia che guardava il muro di fronte con le lacrime che le scendevano. Quando io mi ammalavo, mamma si usciva immediatamente da tutti i suoi problemi, mi spegneva la lancia, mi leggeva le fiabe, chissà come mai, io per tutta la mia infanzia sono sempre stata malata, ho addirittura rischiato di perdere un anno, visto che... Beh, per vedere tua madre allegra non avevi altra alternativa. Ovviamente, allegra che mi spegneva le arance e mi portava il parmigiano, che è un altro caposaldo della malattia, altro cibo magico che guariva qualsiasi cosa, e comunque devo dire che trovo commoventi tutti gli interventi di oggi. E quello che abbiamo sempre detto, le fiabe passano di generazione in generazione, devono essere quelle. Vorrei ricordare un tizio che si chiamava Schreber, tedesco, evidentemente un cognome che aveva vietato le fiabe. Schreber è un pedagogista e l'autore della pedagogia su cui si sono formati anche i carnefici di Hitler. E questa roba esisteva. Io ho cominciato a fare il medico negli anni 70, alcune mie mutuate molto anziane mi dicevano: dottoressa, era vietato prendere i bambini in braccio, dovevamo allattarli chini sulle culle. Schreber vietava di raccontare fiabe ai bambini, si chiama pedagogia nera. Schreber vietava di prenderli in braccio, bisognava picchiarli già dall'età di 6 mesi. Dall'età di 6 mesi bisognava fare il bagno ai bambini nell'acqua fredda, siamo in Germania negli anni 20, non nei Caraibi. E Schreber ha avuto 2 figli maschi, uno a cui evidentemente le fiabe non gli era raccontate, uno molto suicida, l'altro molto psicotico. C'era una volta un gentiluomo che, rimasto vedovo con una figlia, decise di risposarsi. Prese come seconda moglie una donna superba e arrogante che aveva 2 figliole, brutte e antipatiche, Matilde e Carlotta. Un triste giorno il gentiluomo morì e solo la sua figliola, che era buona e gentile, pianse lacrime sincere. Rimasta sola e indifesa, la povera fanciulla fu messa in cucina a sbrigare tutti i lavori più pesanti, mentre le 2 sorelle antipatiche e la matrigna facevano una vita da signore e la comandavano a bacchetta. Sorellastra, portami la colazione a letto. Quanti che ascoltano potranno vedere rappresentata in maniera esemplare quella che è la loro esistenza, quante disparità nelle famiglie allargate, nelle famiglie ricostruite. Allora si parlava di vedovanza, ma oggi nei secondi, terzi e quarti matrimoni è molto facile trovare questi sbilanciamenti di trattamento. E le favole probabilmente anche in questo furono profetiche, dettero quella che era un'immagine della società contemporanea. Denise, buongiorno. Sì, buongiorno, è sempre un piacere ascoltarvi. Volevo intervenire su questo perché io ho utilizzato le fiabe nel mio lavoro, perché negli ultimi anni ho lavorato in ambito psichiatrico, per cui la nostra De Mari sicuramente saprà di come anche le fiabe possono essere utilizzate nei gruppi di discussione, nel senso, noi partivamo dalla lettura di una fiaba, però nascevano veramente tantissimi spunti di discussione e apparentemente, anche se si lavora sull'immaginario, poi uscivano le esperienze. Ma lei delle con persone. Che tipo di neurodiversità trattava questo tipo di terapia? Noi avevamo gruppi molto eterogenei, nel senso che c'erano persone psicotiche, ma anche persone che erano ricoverate da noi per problemi di depressione o problemi di disturbi alimentari. Erano gruppi eterogenei sia per età che per disturbi. E, naturalmente il requisito era quello di essere in grado di avere l'attenzione necessaria per partecipare. E lei usava le favole classiche, diciamo, del repertorio classico? Sì, un po' di tutto, sia il repertorio classico che anche magari qualcosa che andasse, diciamo, che di solito viene poco utilizzato, ad esempio le fiabe del Pentamerone, che comunque sono molto colorite e divertenti, anche se è un linguaggio sicuramente non facilissimo. È un po' datato per i bambini. Giulia, buongiorno. Buongiorno, volevo dire che io ho 14 anni, quindi diciamo faccio parte della nuova generazione. Oh, finalmente, una 14enne che ci ascolta. Accenderemo ceri alla Madonna. Però diciamo, nonostante questo, in casa ho sempre i 45 giri, perché diciamo erano quelli della mia mamma e continuiamo ad ascoltarli, la mia sorellina. E funzionano ancora? Sì, funzionano ancora. Lo sai che adesso puoi scaricarti anche l'app per l'iPad, per l'iPhone, per ascoltare le fiabe sonore. E tu invece preferisci il giradischi della nonna? Sì, diciamo di sì, anche se ogni tanto si rompe un pochino, c'ha dei problemi, i dischi devono essere inseriti e reinseriti più volte. Senti, ma quante delle tue coetanee ascoltano ancora le favole? A dir la verità, credo nessuna, cioè non ho notizie di coetanee che ascoltano favole. E tu naturalmente non glielo racconti che ascolti le favole? No, non ho mai avuto modo di dirglielo, ma nel caso... Non gliel'hai detto? Cosa ti direbbe una tua compagna di scuola 14enne se dici io ascolto le fiabe sonore, la principessa sul pisello o Cenerentola bella addormentata? Ti prenderebbero per una menomata psichica come minimo? No, diciamo dipende da quale compagna lo direi. Grazie Giulia. Silvana De Mari, un caso più unico che raro di una 14enne che ascolta le favole. Ti dico, per l'esperienza concreta che ho io, oggi in una classe di scuola in cui una 14enne si alzasse e dicesse ascolto le favole, diventerebbe lo zimbello delle sue compagne da lì fino a tutto il liceo. Non ne sono così certa, tenendo presente pronto a scommettere. Tutti in coda per andare a vedere il Principe Ranocchio in edizione Disney, d'accordo, era molto diverso dalla fiaba originaria, ma queste storie sono universali, tutti quanti lo sanno. In compenso è molto bello il fatto che molti ricordano il vinile, quindi finalmente unico oggetto che attraversa i decenni è l'oggetto su cui c'è il nostro affetto. Questo oggetto diventa un oggetto transazionale, cioè qui sopra metto il mio affetto, che adesso invece è un problema grave, perché l'eccesso di oggetti, il fatto che gli oggetti vengano in concessione sostituiti, non ci dà un oggetto che noi amiamo. Un bambino che non abbia una bambola è in carenza, ma una bambina a cui venga regalata una nuova bambola ogni 2 settimane, per cui inevitabilmente la novità eccetera, non riesce ad avere un oggetto su cui invece c'è un investimento emotivo. Infatti è interessante, Silvana, capire adesso nella nuova versione delle fiabe sonore, che è un oggetto immateriale, un file MP3, sì, come potranno tramandarla poi le ultime generazioni? Lo ascolteranno sull'iPhone, ma poi? Troveranno un sistema, perché è importante questa cosa, che questa trasmissione di oggi è straordinaria, gli interventi sono straordinari. Le grandi fiabe, l'altra cosa che insegnano è la responsabilità personale. La matrigna di Biancaneve, madre, anche significato di madre, seconda madre, seconda moglie del padre, eccetera, ma anche di madre patria, lo stato criminale. Quando una nazione distrugge una sua minoranza, questa minoranza ha la superiorità culturale sul resto della nazione. Il cacciatore non va a trinucolare a Norimberga, erano i miei ordini. Non uccide la principessa, lì abbiamo il giusto. E lì abbiamo nella figura della matrigna il perdente radicale. Una donna vanitosa, una donna che ha un disturbo di personalità grave, che ha un io forte, non schiaccia nessuno, che deve essere più bello del reame schiacciando i suoi stessi figli o distruggendo una propria minoranza, un complesso di inferiorità maledetto, e pur di distruggere l'oggetto odiato, ma il supremo sacrificio, la sua bellezza e la sua vita. E Adolf Hitler è un perdente radicale, il terrorista suicida è un perdente radicale. In tutti ci è stato raccontato nella storiografia marxista la fantastica storia che il genocidio venga fatto per motivi economici. Mai, è il contrario. Tutte le nazioni che hanno fatto un genocidio vero, i turchi che massacrano gli armeni mentre la prima guerra mondiale è in corso, i tedeschi che si distraggono a massacrare gli ebrei, non l'avessero fatto, non avrebbero perso la guerra, è stato calcolato che i russi li avrebbero fermati. I tuzzi, che sono l'aristocrazia intellettuale, la classe borghese in Cambogia, chi commette un genocidio poi distrugge la propria economia, distrugge, addirittura sono state affrontate sconfitte inenarrabili durante guerre mondiali, il perdente radicale. Volete capire Auschwitz? Leggete Biancaneve. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io ho telefonato perché ho ricordato che con uno dei miei figli di 3 anni, poiché io lavoravo ed ero sempre fuori casa, avevo preso l'abitudine di registrare la lettura insieme a lui delle favole. Cercavo quelle divertenti, per cui nella registrazione c'erano le sue risatine, le domande, e queste favolette lui le riascoltava anche quando io non c'ero. E questa è stata una cosa bellissima, gratificante, per cui non so, se qualcuno lo vuole fare, provare, veramente ha funzionato. Mi ha toccato nell'intimo, perché mi ha ricordato che lo facevo anch'io con il primo figlio piccolo, e oggi ho ancora quelle cassette e sono struggenti. Un ragazzo che ormai è grande, sentirlo con la voce da bambino che interloquisce con te. Le favole poi che raccontavo io erano favole schifosissime, le inventavo io, c'erano bambini puzzolenti, tutte a base di rumori intestinali, via. Raccontavo delle favole oscene, me le inventavo lì per lì, e ogni volta mi chiedevano di proseguire e me le inventavo a braccio. Oggi vergognerei quasi, ma se lei me l'avesse ricordato prima sarei stato quasi tentato di mandarne una in onda. Vivi, buongiorno. Buongiorno. Ascolta Nicoletti, scusami se intervengo, purtroppo sono in ritardo col mio intervento perché hanno già parlato di vinile eccetera, però io ti posso dare una notizia, che nel 1953-54 mio padre, che era un fanatico lettore e anche assertore dell'utilità della che la sigla sennò ti sega, sì. Che fa? Allora, niente, mi aveva regalato un disco 78 giri con La Bella e la Bestia. Era l'antesignano di Fiabe Sonore. Grazie Silvana De Mari, grazie Alessandro Chiappini, Fabrizio Intonti. Finalmente finite le feste, dopo la Befama ricominciamo seriamente. Finisce così questa favola breve, se ne va, se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà. Oh.